as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane e le Rose, Radio Città Fucico 103.1. Oggi puntata speciale. Sì, oggi non parleremo di accordi sindacali, non parleremo di chiusure di fabbriche, non parleremo di questioni prettamente legate alla nostra vita quotidiana sui luoghi di lavoro, ma abbiamo intervistato Stefan Buchin, che è un sociologo, un marxista, un professore universitario di Parigi, lui di origine belga, che insegna a Parigi l'università. L'abbiamo incontrato per caso, nel senso che in realtà è stato lui che è voluto venire in Italia ad incontrare noi, non solo noi, una serie di compagni che nei mesi di marzo del 2020 hanno scioperato ad oltranza, come abbiamo fatto noi, contro il governo che ci teneva al lavoro e non potevamo fare nulla, ci rinchiudeva in casa, se vi ricordate quello che cadde nel 2020, e noi siamo stati tra i tanti che hanno scioperato in quel periodo, e lui sta scrivendo un libro su questo fenomeno che non è accaduto dappertutto. Chiaramente lui è un sociologo che si occupa tanto di lotta di classe, è venuto da noi in Italia, ci ha intervistato e ne abbiamo approfittato anche per fargli qualche domanda, visto che è un'occasione unica, che è rara, poter colloquiare con un marxista di questo spessore, con uno che da tanti anni si occupa di noi, di lavoratori, di lotta di classe, di mobilitazioni e dei fenomeni che accadono in tutto il mondo. Adesso vi lascio la sua intervista. In realtà ci saranno due puntate, perché è stata molto lunga. Oggi sarà la prima puntata in cui affronteremo una serie di questioni legata al suo libro, legata a quello che è successo in quel periodo, e la seconda puntata più legata a discorsi generali sulla lotta di classe e quello che accade in Europa. Vi lascio subito un bellissimo pezzo e poi sentiremo Stefan Buchin, quello che ci racconterà. Un saluto a tutti e ci vediamo alla fine. Thank you. in the sky, but you're just high, you're just high. And then you fall asleep, gently to the beat as you lay down. Put on your own crown, kissed by the sun. You are happy and you're having fun. The sunbeams are so hot today. Ciao compagno Stefan, è un piacere per noi averti qui a Bologna. Sei venuto in realtà tu per intervistare noi. Siamo stati contenti di lasciarti un'intervista. Hai incontrato noi una delegazione dell'RSU della Bonfiglio dei Riduttori, ma adesso qui come Pane e Rose volevamo parlare con te del tuo progetto. Spiega un po' a tutti i nostri ascoltatori. Molti sono lavoratori, altri sono comunque persone interessate al mondo del lavoro. Vorrei che tu spiegassi il motivo che ti ha portato qui in Italia e il progetto che hai in testa, che vuoi realizzare. E chiaramente tutti noi siamo felicissimi di aver dato un contributo e speriamo che tu riesca a scrivere questo meraviglioso libro che ci servirà tantissimo e speriamo di leggerlo anche in italiano. Mi chiamo Stéphane Bouquin, sono professore all'Università di Paris Saclay, sono di origine belgo-francese e sono venuto in Italia per incontrare compagni, delegati, lavoratori che hanno fatto sciopere da solo, in qualche modo da solo, spontaneamente, con o senza loro organizzazione, 2 anni di fa. Sono venuto in Italia per rintracciare le tracce di una insubordinazione operaia, quello che è successo 2 anni fa, all'inizio della pandemia, non può essere dimenticato per me, né da coloro che l'hanno fatto, né da altri che avrebbero potuto farlo. Che cosa è successo? Tutti stavano seguendo le notizie di Wuhan, di isolamento, l'inizio di una pandemia di coronavirus in Cina. Tutti si dicevano: spero che rimanga lì. Ma a febbraio 2020 ci sono stati i primi casi in Italia, poi la zona rossa di Lodi. Per me, avendo le mie figlie gemelle in Italia in quel momento, mi sono detto: ci siamo, tra 2 settimane ci saremo anche noi. Conoscevo la storia della SARS-CoV-1 del 2003 con il medico italiano Carlo Urbani, responsabile dell'OMS del sud-est asiatico, che sapeva come prendere le misure necessarie. È stato infettato lui, è morto lui, così come 8.000 persone, ma si è fermato molto rapidamente perché sono stati in grado di contenere la diffusione molto rapidamente. Questa seconda variante di corona, il SARS-CoV-2, era meno mortale ma più contagiosa, così è passato sotto il radar. Se era già nell'Italia settentrionale del nord, doveva essere contenuto con i mezzi più restrittivi, altrimenti si sarebbe inevitabilmente diffuso nel cuore della società capitalista europea e da qui nel mondo intero. Questo è quello che è successo. Qual è la storia che è il significato di questa insubordinazione sociale e operaria? Per me è molto semplice, per forza di cose. La classe stessa si è manifestata come una classe per se stessa, senza l'aiuto di nessuna istituzione o partito. Il governo Conti ha deciso, con grande ritardo, di mettere tutti a casa, prima al nord, poi in tutta Italia. A casa, ma senza smettere di lavorare. Certo, c'è un vuoto, una contraddizione. Devi smettere di contaminare, ok, ma devi comunque andare al lavoro. La reazione dei lavoratori è stata sana, intelligente e necessaria. Neanche poi andremo a lavorare. Non siamo carne di cannone di macella. Uno sciopero spontaneo che ha colpito più di 200 aziende in meno di 24 ore, di 500.000 o 2.500.000 lavoratori, hanno deciso di fermare la produzione. La parte superiore della CGIL ha seguito sotto la pressione della base. Ha chiesto di chiusura di tutta l'economia, altrimenti ci sarebbe un stato sciopero, un sciopero generale. Conti ha risposto: ok, fermeremo tutto tranne i settori essenziali di attività. La nozione di settori essenziali è il prodotto, per me, di due cose. Primo, il mondo del lavoro esprime la sua volontà di proteggersi. Lo Stato italiano, seguito dagli altri Europa, capisce che deve agire rapidamente, altrimenti non svolgerà più il suo ruolo. Il suo ruolo è dello Stato, della classe, un Stato con un contenuto di classe, e rapidamente, altrimenti, non svolgerà più il suo ruolo. Questo ruolo è di garantire la riproduzione dell'ordine sociale. Senza il blocco, senza il lockdown, ci sarebbero stati 25.000 pazienti in più di pochi giorni, poi 50.000, poi 100.000, 200.000. Nessun sistema ospedaliero avrebbe potuto resistere a questa ondata. Quello che è il caso che è successo 2 anni fa è che l'istinto sociale di sopravvivenza ha preceduto il governo del sistema. Questo è qualcosa che non va dimenticato, perché è ricco di lezione. Le nostre organizzazioni, le organizzazioni del movimento operaio, erano nella retroguardia. 2, lo Stato capitalista ancora di più e ha seguito come guida dell'azione il minimo di misure per permettere all'ordine sociale di riprodursi. Da marzo 2020 è sempre stato in ritardo, ma poi ha preso rapidamente le misure, perché ha favorito gli interessi del capitale e non della società, del capitale e non della sanità pubblica. Se tutti rimangono a casa, ha lo stesso effetto di un sciopero molto molto molto generale. L'accumulo di capitale si ferma, il ciclo di accumulazione è morto, il capitale non viene più valorizzato, diventa inerte. La lezione analisi e politica è questa: senza l'attività del lavoro vivo, il lavoro morto, che è il capitale, e muore. Questo muore da solo. Così la pandemia ci insegna qualcosa sulla nostra società. Senza lavoro, ma anche forse il lavoro essenziale, il capitale non esiste più. Anche se il capitale domina il nostro mondo, in realtà dipende da noi. Sì, oggettivamente, objectivement, ma anche subjectivement, soggettivamente. Il mio compito di sociologo marxista, militante, è quello di contribuire a riconoscere questa realtà, a non dimenticarla e quindi a iscriverla nella azione di coloro che sono coscienti e che sono organizzati. Se sono venuto in Italia è stato per raccogliere le tracce di questa coscienza e di contribuire al suo riconoscimento collettivo. Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau, beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouveras-tu les mots au-delà des fourbes apparences, derrière nos lourdes circonstances, sous nos masques cousus d'espérance, se cachent les fêlures de l'enfance, de l'enfance. L'air de rien, on est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles tout là-haut, on oublie nos certitudes, on chérit la solitude, à faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut, on ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on existe enfin. S'en aller tout là-haut, pour mieux s'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego, oh, à démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux, là-haut, au-delà des fausses apparences, dans nos cailloux d'adolescence, sous nos masques teintés d'insouciance. La solitude, à faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut, on ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on résiste enfin. Se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh, si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux, là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence, sous nos masques cousus d'espérance. De l'enfance, l'air de rien, on est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles tout là-haut, on oublie nos certitudes, on chérit la solitude, à faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut, on ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on existe libre, on est pas mal tout là-haut. On chérit la solitude, à faire une escale tout là-haut, à tomber le voile tout là-haut, on ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on résiste enfin. Allez viens, allez viens, allez viens, allez viens, allez viens, allez viens. Volevamo sapere da te, visto che tu sei un osservatore di quello che è accaduto nel mondo del lavoro durante la pandemia. Hai potuto osservare dal tuo punto di vista, ma hai girato tantissimo, ti sei informato, tutto quello che è accaduto durante la pandemia, ma anche le rivolte che ci sono state per quanto riguarda la questione del Green Pass, dei Novax che hanno manifestato. Volevamo sapere da te la tua opinione su quello che sta accadendo in Europa, che è importante anche per capirlo da noi qui in Italia. Ogni paese, ho capito che ha le sue particolarità. Ci puoi spiegare un attimo quello che tu hai visto, le lotte sulla pandemia, ma soprattutto quello che è accaduto dopo, quando sono cominciati ad arrivare i vaccini, la gente a vaccinarsi, quando sono arrivate le restrizioni, perché è stato qualcosa di veramente diverso da quello che è successo per quanto riguarda le rivolte durante la pandemia. Spiegaci un attimo il tuo punto di vista. Allora, che cosa pensa delle mobilizzazioni contro il Green Pass? Prima di tutto dobbiamo cercare di capire. Penso che queste mobilizzazioni esprimano diverse cose allo stesso tempo. La gente è stufa di essere controllata ovunque con il pass sanitario o il pass verde o il green pass. E poiché il virus continua a circolare, poiché nuove varianti del virus sono apparse e continueranno a farlo. La conclusione è considerare che il green pass è una forma di controllo che stabilisce un regime totalitario. Questo non è del tutto sbagliato, perché l'ideologia neoliberale è davvero in crisi. Il governo non ha più molta legittimità e il modo in cui la crisi sanitaria e la pandemia sono state gestite in Europa è stato catastrofico. Nelle sue manifestazioni c'è anche un sentimento di stanchezza verso tutte le istituzioni e un desiderio di vedere il lavoro meglio riconosciuto e meglio pagato. Il convoglio della libertà ha anche un contenuto reazionario. Il rifiuto del pass è una cosa, ma il rifiuto della vaccinazione è un'altra. Le forze della sinistra, del movimento dei lavoratori, i sindacati, dovrebbero prendere l'iniziativa e imporre regole sanitarie che proteggiano i più deboli, i vulnerabili. Dobbiamo adattare l'ambiente di lavoro, i sistemi di ventilazione, continuare a lavorare a un ritmo più lento se è necessario, estendere l'offerta di cura e quindi aggiungere più letti e reclutare infermieri. In breve, mobilitare le risorse e la popolazione per una politica di solidarietà, di zero Covid solidarietà. Si dovrebbe offrire alla popolazione una consultazione gratuita con il medico e una spiegazione dei diversi vaccini e offrirne diversi. Niente di tutto questo è stato fatto. Infatti, dalla scoperta dei vaccini, i governi hanno creduto e fatto credere che la pandemia sarebbe finita. Il vaccino sarebbe una sorta di soluzione miracolosa che permetterebbe all'economia di funzionare di nuovo a pieno regime. Ma i vaccini non impediscono al virus di circolare, riducono la gravità e il numero di casi gravi. Ma siccome la popolazione è ingenua, l'umanità non ha conosciuto questo virus, già con Delta poi con Omicron ci sono molto più contagiosi, Covid ha colpito grande settore della popolazione. Penso che alcuni governi, piuttosto cinicamente, si siano detti: lasceremo andare la contaminazione, così dopo se ne libereremo, finito la pandemia. Tutti l'avranno avuto e saranno immuni. Questo non è vero, perché l'immunità non dura molto a lungo, né quella dei vaccini, 6 a 8 mesi, che significa che sarà necessario diffondere per una vaccinazione generalizzata. Una volta e ancora una volta. Tutto questo finisce per alimentare sentimenti in cui i più deboli, gli anziani, gli immunodepressi sono sacrificati sull'altare del mondo di prima. E siccome vogliamo così tanto tornare al mondo di prima, peccato è così. Questa indifferenza alla sofferenza è il fondamento del fascismo. Questa è una specie di ideologia genetica, un darwinismo sociale. L'umanità sta perdendo la sua umanità verso i più deboli. Se non riusciamo a combattere ideologicamente questo sentimento, credo che il fascismo potrà trovare un vero pubblico di massa, una maggioranza. Come si può fare? Prima di tutto dobbiamo essere molto più offensivi. Non possiamo tollerare la povertà di massa in paesi ricchi come il nostro. La Francia è appena uscita un studio che dimostra che il non utilizzo della RSA, la prestazione sociale, un aiuto sociale che è minimale ma che esiste, che il non utilizzare questa prestazione rappresenta il doppio in soldi della frode sociale. Ci sono persone che hanno bisogno di questi benefici, di questo aiuto, ma i vincoli amministrativi sono così complessi che rinunciano. La povertà che ho visto nelle strade di Atene subito dopo la crisi finanziaria e durante la crisi del debito si vede ovunque, dappertutto oggi. La gente dorme per strada, nelle loro auto, è abbastanza spaventoso. Anche i lavoratori sono sempre più poveri, non solo precari ma poveri. Quasi un terzo della popolazione attiva in Italia guadagna meno di 10.000 euro all'anno. Stiamo entrando in una regressione sociale della stessa ampiezza di quella vissuta dall'America Latina negli anni 80 o 90 con la dollarizzazione dell'economia. Ma oggi, con l'inflazione e la stagnazione dei salari, gli stipendi, gli strati medi della classe operaia, della classe dei lavoratori, stanno diventando più poveri. Il 15 o il 20 del mese devi andare al banco alimentare. I giovani laureati di oggi sperimenteranno una vita che sarà più difficile, più dura di quella dei loro genitori. Tutti questi producono un'accumulazione di rabbia e di frustrazione. Siamo arrivati alla fine della prima puntata dedicata all'intervista a Stefan Buchin. Per noi è un onore avere un intellettuale di questa caratura qui in radio a Città Fujiko, al Pane delle Rose. Avete sentito quello che ci ha raccontato, certamente il suo punto di vista è un punto di vista molto molto importante, e ci ha raccontato anche cose che noi da italiani non abbiamo visto. Lui da fuori ha notato tante cose, ce le ha raccontate ed è stato importante ascoltarlo. Io spero che molti hanno seguito questa puntata e la prima parte. Nella seconda parte lui parlerà di lotta di classe ed io vi invito a seguire la seconda parte di Stefan Buchin, a seguire Il Pane delle Rose, perché io penso che senza teoria, come diceva Lenin, insomma, la rivoluzione non si può fare. È importante ascoltare questi maestri del marxismo, questi professoroni che parlano ai lavoratori, che sono in mezzo alla classe, perché loro non sono semplici accademici, ma vengono a parlare con gli operai, vengono in fabbrica, stanno fuori dai cancelli, ci incontrano, girano il mondo parlando con i lavoratori quando lottano, e questo è importantissimo. Noi rispettiamo e con loro chiaramente siamo sempre ben disposti a colloquiare e a sentire quello che hanno da dire, anche perché loro spesso sono sempre anche loro pronti ad ascoltarci. Ci sentiamo per la prossima puntata. Mi raccomando, sintonizzatevi sul Pane delle Rose il martedì alle 13.30. Chi non può, ci segua sulla pagina Facebook del Pane delle Rose, che metteremo sempre i link del podcast. Ok? Ciao, alla prossima. Oh, Uganda, prima che ce ne sarà.